Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini nel nostro consueto spazio di ascolto e approfondimento a partire da alcuni eventi che si sono svolti a Padova nel territorio diocesano in quest'ultimo periodo. Siamo oggi all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova che per l'anno accademico in corso continua ad approfondire il tema del nascere e del morire nell'ambito dell'itinerario triennale Il Corpo delle Religioni. Dopo la prolusione introduttiva del professor Silvano Petrosino che vi abbiamo proposto qualche giorno fa, ora proponiamo l'evento che si è svolto martedì 28 febbraio sul tema del nascere e morire nella cultura africana. Sentiremo in particolare gli interventi dell'antropologa Anna Cristina Vargas e di padre Oliver Isogu, teologo nigeriano, con l'introduzione della professoressa Francesca Marin, filosofa, docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova. I giorni della Chiesa. Nascere e morire sono degli eventi universali. Li definirei così perché caratterizzano qualsiasi essere vivente, caratterizzano la vita di ciascun essere vivente. Ciò nonostante, per l'uomo il nascere e il morire non sono solo degli eventi, ma sono anche delle esperienze fondamentali che sono particolarmente ricche di significati, di simboli e di ritualità. Credo che dall'incontro di oggi coglieremo questa ricchezza di queste esperienze fondamentali confrontandoci con la cultura africana. Perché possiamo dire che sono ricche di significati, di simboli, di ritualità? Perché attorno al nascere e al morire l'uomo sviluppa delle prospettive semantiche e simboliche e quindi queste due fasi liminari dell'esperienza di ciascuno di noi vanno poi a connotare il vissuto personale della nostra appunto esistenza e oltretutto sono delle esperienze fondamentali che si inseriscono nella dimensione del vivere collettivo e questa è un'altra caratteristica appunto delle esperienze fondamentali del nascere e del morire per l'uomo. Ecco, come noi sappiamo, oggigiorno, grazie anche al fenomeno della globalizzazione e dell'immigrazione, noi siamo sempre più chiamati a rapportarci con immagini del nascere e del morire che appartengono ad altre culture. E questa è appunto una vera e propria sfida e al tempo stesso anche una ricchezza. Ecco, grazie agli interventi dei nostri relatori, oggi abbiamo l'opportunità di confrontarci con la cultura africana, o meglio con le culture africane, come avremo modo di vedere, e aggiungerei che l'incontro di oggi ci permetterà di confrontarci con gli orizzonti semantici e simbolici in merito al nascere e al morire che vengono appunto offerti dalla cultura africana. Proprio perché quando parliamo del nascere e del morire nell'esperienza umana, ci stiamo riferendo comunque a delle prospettive semantiche, simboliche, a delle pratiche di vita, delle ritualità. Ecco, questo confronto, come dicevo, non è sempre facile, è sicuramente proficuo perché ci mette dinanzi a quella che io definisco la domanda di senso, cioè il quesito perché si nasce, perché si muore. E questo è un quesito universale, che tutti, indipendentemente da fattori culturali e religiosi, si pongono proprio per dare senso, appunto, all'esperienza universale del nascere e del morire. Ma come vi dicevo, non mancano poi le questioni problematiche. Non sempre il confronto con le immagini del nascere e del morire di altre culture è semplice. Sicuramente i nostri relatori entreranno nel dettaglio a riguardo, però provate solo a pensare già alle difficoltà legate alle differenze linguistiche o ancora le differenze simboliche che provengono appunto da un confronto tra le diverse culture, le differenze di riti, le differenze di pratiche di pratiche di vita. E ora provate a immaginare quando questo confronto tra le varie differenze, tra la pluralità delle differenze, avviene ad esempio all'interno delle istituzioni sanitarie. Allora, dinanzi ad un contesto come quello assistenziale, ci si arriva a chiedere in che modo io posso accompagnare nell'inizio, nel fine vita, colui che appartiene ad un'altra cultura. Ecco che allora, proprio per questo motivo, noi abbiamo chiamato oggi tre relatori con diverse competenze in ambito antropologico, in ambito teologico e in ambito medico, per cercare appunto di far emergere i vantaggi di questo confronto interculturale e anche di tematizzare quelle che sono le problematiche di questo confronto. Allora, io vorrei subito lasciare la parola alla professoressa Anna Cristina Vargas, che ringrazio fin da subito per aver accettato l'invito. Mi limito semplicemente a una breve introduzione, perché il suo curriculum e l'elenco delle sue pubblicazioni sono ricchissimi, e quindi le chiedo già scusa, mi limito a qualche accenno. La professoressa Vargas è nata a Copacabana, in Colombia, si è laureata in lettere moderne. Nel 2008 poi ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze antropologiche presso l'Università di Torino. Dopo il conseguimento del dottorato ha partecipato come ricercatrice in diversi progetti promossi soprattutto dalla Fondazione Fabretti. Lavora come formatrice in ambito sanitario, concentrandosi in particolare su temi come il fine vita, la perdita, la mediazione interculturale, la comunicazione con il paziente straniero e la dimensione culturale della morte e del morire. Ha approfondito tematiche nell'ambito dei diritti umani, dell'antropologia della violenza, del fine vita e dell'antropologia medica, approfondendo in particolare il tema della costruzione della corporeità, l'assistenza e l'accompagnamento al paziente straniero e la relazione fra diritti umani, vulnerabilità, sofferenza sociale e salute. Attualmente è professoressa a contratto di antropologia culturale nel corso di laurea in infermieristica pediatrica in ostetricia, in antropologia medica nel corso di laurea in scienze infermieristiche e di approfondimenti di antropologia medica nel corso di laurea per educatori professionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino. Come già vi dicevo, l'elenco delle sue pubblicazioni è molto lungo, perché ha pubblicato vari volumi e diversi articoli contenuti in testi, nonché in importanti riviste nazionali e internazionali. Io mi limito solo a richiamare una recente curatela, cioè un testo del 2015 che la professoressa Vargas ha curato assieme ad altri colleghi, dal titolo La salute come diritto fondamentale, esperienze dei migranti a Torino, edito dalla casa editrice Il Mulino, Roma. E in particolare cito alcuni capitoli di questo testo, dove la professoressa Vargas affronta ad esempio il tema della salute materno-infantile e il tema della mediazione interculturale e la formazione. Mi permetto poi di citare un altro saggio dal titolo L'accompagnamento di chi muore altrove, sfide, problemi e strategie. Non a caso cito questo saggio perché questo suo contributo mi ha permesso di conoscerla direttamente, visto che questo suo saggio è poi contenuto in un testo che ho curato assieme al professor Corrado Viafora, che si intitola Morire altrove, la buona morte in un contesto multiculturale. E noi curatori siamo stati particolarmente grati alla professoressa Vargas, perché la prima parte del testo, del titolo di questo testo, Morire altrove, è appunto debitore della professoressa, che è appunto l'espressione morire altrove proprio impiegata dalla stessa professoressa Vargas. Quindi io chiudo questa breve presentazione, la quale io mi scuso perché doveva essere molto più lunga, visto il suo curriculum e l'elenco di pubblicazioni, lascio subito la parola e la ringrazio nuovamente. Sono io a ringraziare il professor Tonello, la professoressa Francesca Marin per l'invito, a tutti voi per essere qua presenti in questa giornata così interessante dove si affrontano due temi che mi stanno particolarmente a cuore, e grazie anche per la lunga presentazione che, insomma, anzi devo dire fin troppo dettagliata. Io premetto che l'intervento che vorrei proporvi e che vorrei, insomma, le idee che vorrei condividere con voi non sono che un accenno a una realtà estremamente articolata, variegata, composita come quella che può essere la realtà culturale del continente africano. Quindi si tratta solo, come dire, di un'introduzione, di alcuni spunti di riflessione che richiederebbero infiniti approfondimenti ulteriori. E accenno anche un'altra premessa, ed è che queste riflessioni nascono soprattutto a partire dal contatto e dal lavoro con pazienti stranieri, quindi inevitabilmente questo contesto, che è il mio contesto di lavoro, il contesto dell'antropologia medica, sicuramente informa molte delle cose che vi dirò e che in qualche modo mi hanno portato alla riflessione su queste due tematiche, per cui mi sembra importante esplicitare che questo è il contesto in cui si sviluppano le idee che vi proporrò. Sì. Allora, c'è un qualcosa che non si visualizza bene nella prima slide, però la domanda con cui volevo aprire questo intervento c'è ed è quello che mi interessa. E la domanda che ci dobbiamo porre innanzitutto: e che cosa vuol dire cultura? Questa è una parola che io ritengo venga troppo usata per scontata, cioè si riflette troppo poco su che cosa intendiamo per cultura, e questa parola cultura diventa un po' un jolly che ci serve per parlare un po' di tutto. Quindi mi sembra importante dire come intenderò il concetto di cultura oggi, come lo si intende in antropologia culturale, questa parola che ci apre verso un ampio orizzonte di significati. Io con cultura non vorrei solo riferirmi qua alle tradizioni o ai modi di fare o alle usanze di un determinato contesto, ma vorrei allargare questa definizione fino a comprendere qualcosa che è più ampio e allo stesso tempo più profondo, che riguarda i processi di attribuzione di significato. Cioè la cultura è un insieme di rappresentazioni, di modelli di e di modelli per, avrebbe detto Clifford Geertz, il più importante forse antropologo della contemporaneità, un insieme di modelli di in termini di rappresentazioni della realtà che ci permettono di farci un'idea di che cos'è il mondo con cui entriamo in contatto, e cioè di ci aiutano a rendere pensabili i fenomeni che ci accadono, ma anche con cui entriamo in contatto. Quindi la cultura è un modello di, nel senso che ci permette di creare una rappresentazione del mondo con cui interagiamo e di cui siamo parte. Ma la cultura è anche un insieme di modelli per. Modelli per vuol dire modelli di azione, cioè capacità, quella capacità che tutti noi abbiamo, gli script direbbe la psicologia cognitiva, di agire e interagire in un determinato modo con i contesti con cui ci troviamo a interagire, di reagire e rispondere in un determinato modo agli eventi che ci colpiscono, ivi compresi quelli più drammatici o più importanti come la nascita e la morte. Quindi la cultura è simultaneamente significato e azione, è simultaneamente rappresentazione, simbolo, ritualità e quotidianità, no? Nella cultura stanno insieme tutte queste cose si intrecciano, confluiscono in modi che molto spesso non sono per noi consapevoli, e questa per me è la premessa più importante per qualsiasi ragionamento, soprattutto in ambito sanitario, sulla cultura. Tutti noi siamo portatori di cultura, tutti noi. La cultura non è appannaggio degli altri, anche se è negli altri che la vediamo soprattutto. La cultura è qualcosa che dà forma alla soggettività di ciascuno di noi, incide sul modo in cui ciascuno di noi percepisce il proprio corpo, percepisce la propria realtà, gestisce la propria salute, la propria vita, la propria ritualità. Quindi la cultura, una cultura specifica, è qualcosa che ci appartiene, ci plasma, ci impregna in profondità. È solo che la cultura va incontro a un processo che in antropologia viene chiamato di naturalizzazione. Cioè, a un certo punto, cose che sono perfettamente culturali, che sono frutto di un processo di apprendimento, noi smettiamo di considerarle apprese e le cominciamo a considerare naturali, normali. Quindi questa naturalizzazione ci fa perdere di vista il carattere culturale di molte delle cose che noi mettiamo in atto quotidianamente e che in realtà sono appunto frutto della cultura. Dico questo come premessa, ma ritornerò su tutto ciò perché è proprio questa necessità di prendere atto del carattere culturalmente situato di tutte le nostre azioni quello che ci permette poi efficacemente aprire un dialogo interculturale e interreligioso. Se io invece do per scontato che la mia normalità o la mia naturalità è l'unica normalità possibile, allora ogni dialogo, ogni confronto con la diversità diventa in qualche modo un confronto asimmetrico, non un confronto paritario che può essere fondante anche della costruzione di una relazione di convivenza efficace. E quando si parla del contesto africano, e questo qua comincio a entrare nel merito dell'argomento che ci riunisce oggi, in realtà sto parlando di un continente che è caratterizzato da una grande eterogeneità demografica, religiosa, culturale. Infatti questa mappa, che non ha tante didascalie, perché la didascalia era lunghissima e non avrei potuto, preferisco raccontarvela a voce, è una mappa della diversità religiosa mondiale preparata dall'Università di Harvard. Se voi guardate i colori, sono tutte sfumature, no? Cioè c'è l'azzurro, che sono i paesi a maggioranza o a prevalenza cristiana, e quindi, come vedete, il continente americano, da dove io arrivo, è in realtà tutto, quasi tutto, a maggioranza cristiana, cattolica, nella maggior parte dei casi. Il continente africano, invece, ha due aree geografiche piuttosto ben definite. L'area nord, cioè il Nord Africa, dove vedete il verde, sono i paesi a maggioranza o a prevalenza islamica. Poi c'è tutta l'Africa subsahariana, dove la maggior parte della popolazione è cristiana, cattolica, ma non solo, e dove la prevalenza del cristianesimo è sicuramente maggioritaria. C'è qualche paese, specialmente, cioè qualche spot qua e là, no? Specialmente nelle isole al sud, dove sono state segnalate in viola le religioni animiste tradizionali. Si tratta però, di pochi punti dove queste religioni rappresentano, come dire, l'elemento maggioritario nella popolazione. Perché ho usato sempre le parole prevalente, maggioritario? Perché le sfumature sono date dalla proporzione in cui questa maggioranza si esprime in ogni paese. E il blu intenso, per dirvi, è quando la maggioranza supera l'80-90% della popolazione, mentre le tonalità più chiare è quando questa maggioranza è appena sopra la media, cioè il 50-60% della popolazione. Vuol dire quindi che questi paesi e queste maggioranze o prevalenze dell'Islam e del cristianesimo sono maggioranze che si realizzano in un contesto eterogeneo, un contesto fortemente influenzato dalle religioni tradizionali, un contesto dove i significati e i sensi veicolati dalle grandi religioni, come appunto l'Islam e le religioni della grande famiglia del cristianesimo, e diciamo che interagiscono, dialogano, in qualche modo si sincretizzano, cioè si mescolano con tradizioni locali, con credenze che non sono proprie della dottrina di ciascuna di queste religioni, ma che appartengono a una storia, se vogliamo, più antica, una storia che ha a che fare con la tradizione di ogni singolo paese e di ogni singolo gruppo etnico e di ogni singola in ogni singola regione. Perciò Perciò, ecco, per evitare di semplificare una realtà che è così eterogenea, mi sembrava importante farvi vedere appunto questa distribuzione così variegata, così articolata, per dire come dobbiamo sempre tener conto di questo anche quando interagiamo, per esempio, con i migranti africani. No? Sapere, per esempio, che chi arriva dall'Africa sicuramente non è portatore di una cultura, la cultura africana, ma che in realtà c'è un retroscena molto complesso di storie che hanno a che fare con la storia personale del singolo migrante, con il luogo d'origine e con tutta una serie di intrecci culturali che si verificano e si realizzano in ciascuno di questi luoghi e che in misure differenti influenzano il singolo e nel singolo trovano una sua concretezza e realizzazione. Alcuni numeri, dicevo, che mi sembra importante condividere, dicevo, il focus del mio lavoro ha a che fare con l'immigrazione, quindi perché non ricordare un po' quello che diceva la professoressa Marin? Ecco, l'immigrazione ha fatto sì che il problema dell'interculturalità e della pluralità religiosa diventasse qualcosa di pregnante, di importante, qualcosa su cui interrogarsi anche nelle politiche pubbliche qua in Italia. E vediamo, per esempio, questi sono i dati dell'ultimo dossier IDOS del 2016, vediamo come la stima dei cittadini stranieri presenti in Italia abbia raggiunto una cifra considerevole, no? Parliamo al momento di quasi 5 milioni e mezzo di stranieri regolarmente soggiornanti, a cui va aggiunto un circa 10%, secondo le più attendibili stime, forse qualcosa in meno, di irregolari. Molto spesso a livello mediatico, no, o anche nei corsi di formazione, lo dico un po' come aneddoto, a me capita di parlare così in gruppi piccoli con gli operatori e chiedere: ma secondo voi qual è la percentuale di irregolari rispetto ai migranti regolari? E molto spesso le persone mi dicono: ma più del doppio, più del triplo di irregolari rispetto ai migranti irregolari. Non è così, invece. La percentuale di irregolari è in realtà molto minoritaria, mentre il fenomeno prevalentemente è un fenomeno che passa attraverso la regolarità e la regolarizzazione. Poi è chiaro che c'è un margine di irregolarità, ma sicuramente è minore rispetto a quello che sentiamo a livello giornalistico. Qua mi interessava evidenziare questi sono dati che riguardano molti ambiti, non tutti ci interessano, ma in particolare mi interessava evidenziare questo tema qua, il tema dell'appartenenza religiosa. Come vedete, di nuovo a confermare un po' le cifre che abbiamo visto nella mappa precedente, vediamo che la maggior parte dei migranti in arrivo sono cristiani appunto nelle varie confessioni del cristianesimo, in particolare cattolici. I cattolici sono la maggioranza degli arrivati, ma anche musulmani, un 32,2% delle persone che arrivano non solo dall'Africa ma in generale sono musulmani. Ci sono poi altre religioni, ma queste sono in assoluto le due religioni prevalenti. E i paesi di origine sono, tradizionalmente sappiamo, la Romania, da dove la maggior parte di persone in arrivo sono ortodosse, e l'Albania, il primo paese africano è il Marocco, quindi appartenente all'area nordafricana, a maggioranza islamica, e poi successivamente l'Egitto, l'altro paese africano che troviamo. Per cui la maggior parte degli africani che incontreremo sono nordafricani. C'è anche una percentuale significativa di migranti in arrivo da paesi come il Senegal, la Nigeria. Questo cambia molto a seconda delle regioni. Per esempio in Piemonte, dove io lavoro, i senegalesi sono la sesta, settima nazionalità rappresentata, perché c'è una comunità significativa, ci sono reti migratorie che hanno portato a un maggior arrivo di persone del Senegal in Italia e nella zona torinese, quindi diciamo che questo cambia un po' a seconda delle regioni, ma globalmente i dati ci indicano che è la zona nordafricana quella che maggiormente interessa gli arrivi. Quando si parla di cultura c'è un dato importante, così come quando si parla di immigrazione, ed è che la cultura non può mai farci perdere di vista l'individualità, cioè la soggettività, la singolarità di ogni persona. Anche su questo riporto qualcosa della mia esperienza come formatrice in ambito sanitario, dove a volte la difficoltà a interagire con persone che arrivano da così tanti contesti, da così tanti paesi, con così tante lingue differenti, porta gli operatori a chiedere a noi, antropologi, ad altre professioni che si occupano di questo campo, a chiederci delle ricette, io direi, no? Quindi come mi devo comportare con il paziente africano? Come mi devo comportare con il paziente marocchino? O con il paziente colombiano, no? O peruviano, per citare esempi che non sono legati all'Africa. Ecco, qua in realtà noi cerchiamo sempre di spezzare questo automatismo e far vedere che la confessione religiosa, l'appartenenza culturale spiega una parte di ciò che noi siamo, ma la persona, il singolo, l'individuo, è in qualche modo una somma di fattori individuali, soggettivi, esperienziali, autobiografici, culturali e religiosi, che non si risolve naturalmente e non può mai risolversi in uno stereotipo. Quindi questa è un'altra premessa fondamentale per operare nel campo dell'interculturalità. Detto questo, molte cose fondamentali, come appunto che cos'è una persona, sono domande poste dalle culture, sono domande che a cui le culture danno risposte. E la nozione di persona in ambito antropologico viene considerata una nozione, anche qua, socialmente costruita, un qualcosa di socialmente elaborato. Questo ci porta ad affermare che la nozione di persona non è uguale ovunque. Che cos'è una persona? Vuol dire che cos'è un essere umano? È una domanda a cui ci possono essere risposte che hanno sfumature diverse, non che sono radicalmente diverse, perché partono tutte le risposte di tutte le società partono dal dato comune della nostra comune umanità, ma sfumature diverse, per esempio, come definisco io la persona? La definisco un individuo, un'individualità, così come la persona viene definita in Occidente prevalentemente, cioè qualcuno di cui io enfatizzo il carattere di unicità, di singolarità, di irrepetibilità? Oppure, e questo ce lo dice Roger Bastide, è il modo più diffuso per intendere la persona nel continente africano, oppure enfatizzo la dimensione collettiva e relazionale della persona. Quindi enfatizzo i suoi tratti in termini di legami, di chi è in relazione agli altri, chi è in relazione a una collettività, ad un'appartenenza, ad una famiglia. Più questo, più il tema della socializzazione che l'individuazione viene rilevato dagli antropologi e dagli etnopsichiatri, etnopsicologi, come prioritario nel continente africano. Questo si manifesta in moltissimi modi. Per esempio, un modo è il fatto che nel presentare se stessi, prima ancora che enfatizzare, no, io sono Tizio, si enfatizza chi siamo in relazione agli altri, no? C'è qualcosa anche qua nel contesto italiano. Non so se molti di voi avrete sicuramente figli. Chi ha figli sa che a un certo punto della propria vita si smette di essere Anna Cristina e si diventa la mamma di Leonardo o la mamma di Anna. E ci si definisce non tanto in virtù di un tratto individuale, ma in virtù di una relazione. Ecco, fenomeni di questo genere sono molto molto diffusi nel continente africano e in America Latina. Provo a fare un altro esempio di questo. Come si allevano i bambini? Molto spesso il modo per allevare i bambini, i figli, qua in Italia, anche diciamo in una maniera così spontanea, popolare, non sto parlando della psicologia o delle teorie psicologiche, ma di quel sapere popolare diffuso con cui ci confrontiamo quotidianamente. L'allevare i bambini viene pensato come qualcosa che è un compito prettamente materno. E ecco, per esempio, nel caso del continente africano si pensa alla cura dei figli come un compito che non è prettamente della singola mamma, ma che è qualcosa che è a carico di tutto il gruppo familiare, di tutto il gruppo di donne che stanno intorno a quel bambino. Quindi in qualche modo non è che questo rende meno forte la figura della madre, è che questo arricchisce un ventaglio relazionale intorno al figlio, creando una rete di relazioni tutte altrettanto significative. Una cosa molto simile avviene nel continente americano, in America Latina, e qua Io diciamo che racconto sempre l'aneddoto di mia zia. Io stessa vengo da una famiglia organizzata così, no? Dove i bambini venivano un po' allevate da tutta la rete di parenti femminili. Questo non è Africa, però in qualche modo ricorda un po' il continente africano. Quando ho avuto il primo figlio qua in Italia, ero qua da poco tempo, ho chiamato mia zia, presso cui io ho trascorso parecchi anni nella mia infanzia, e le ho raccontato: ah zia, è andato tutto bene, il bambino è nato, è tutto a posto, eccetera. E mia zia mi ha detto: che bello, dai, allora tu sei molto giovane, questo sono passati degli anni, tu sei molto giovane, finisci, cioè, hai bisogno di tempo per finire l'università, fai così, lo tieni da te i primi 6 mesi, poi me lo mandi 2 o 3 anni, tempo che tu finisci l'università, e poi te lo vieni a riprendere quando il bambino ha 3-4 anni e te lo riporti in Italia. Allora, se fosse stata una mamma o una zia italiana che dice questa cosa a una mamma italiana, voi immaginate la risposta, no? Zia, vai a cercarti uno bravo che ti aiuti. Invece io capivo che questa era una richiesta normale e una proposta normale che poteva essere fatta, soprattutto per un dato concreto: mia zia non ha avuto figli. Quindi io risposi: ecco, zia, dai, non ti preoccupare, me la cavo, rimango qua, lo tengo qua il bambino, grazie per avermelo offerto. E lei mi ha risposto, cosa per me molto eloquente: ah, caspita, come sei diventata egoista da quando sei in Italia. Non è che se l'è presa, ma lei vedeva, ecco, questo perché? Per ribaltare un po' le nostre normalità. Io racconto sempre questo aneddoto perché ribalta la nostra idea di normalità. Egoista perché? Perché lei, non avendo figli, vedeva questa condivisione nell'allevare i figli non solo come un piacere che lei faceva a me, ma come un modo per se stessa per compensare quella carenza che aveva avuto e sentito come forte nella sua vita, e per condividere la maternità come elemento che tiene insieme un gruppo familiare e un gruppo sociale. Questa rappresentazione fa sì che il bambino non viva un allontanamento dalla madre in termini di un abbandono, ma lo viva assolutamente come appunto un allargamento della rete relazionale che si verifica a partire dalla condivisione delle relazioni e dei legami all'interno di un gruppo femminile. Mi è capitato molte volte, lavorando con i mediatori, di scoprire che anche in Africa e soprattutto nell'Africa equatoriale l'idea di allevare i figli come qualcosa di condiviso dal gruppo sociale e non come responsabilità e appannaggio di un singolo individuo o di un singolo nucleo è molto diffuso. Tant'è che per i nuclei familiari africani emigrati che vivono a Torino è frequente un problema che diciamo potremmo definire nuclearizzazione della famiglia, e cioè il gruppo familiare, da essere un gruppo familiare allargato, fatto da varie generazioni, fratelli, una rete relazionale ampia e solida, diventa una famiglia nucleare, una coppia con i figli. E questo fa sì che aumenti di molto lo stress, il peso relazionale, che spesso problemi e conflitti che si snodavano all'interno di una relazione più ampia si slatentizzino e si creino situazioni di disagio. Parliamo adesso invece più in maniera esplicita. Ho cominciato a introdurre alcuni argomenti, però cominciamo a entrare nel merito della nascita e della morte, a partire da un'affermazione che è quella di Clifford Geertz, una frase che mi piace molto. Lui dice: i problemi, le questioni forse sarebbe più opportuno dire, essendo esistenziali, sono universali. Le loro soluzioni o le risposte che ad essi diamo, essendo umane, sono diverse. La nascita e la morte fanno parte di questi grandi quesiti esistenziali che tutti universalmente siamo chiamati a rispondere. Ma nelle varie società si risponde in maniera diversa a questi fenomeni, si concettualizzano, si simbolizzano in maniera diversa questi grandi passaggi della vita. E questa significazione passa attraverso che cosa noi intendiamo per essere umano, come si snoda questo processo che l'antropologo Francesco Remotti ha definito costruire o fare umanità. Fare umanità perché? perché ogni società umana modella l'essere umano, modella quasi letteralmente, modella l'aspetto fisico, modella l'aspetto psichico, interviene sull'essere umano per dare forma a un preciso modello di umanità. E un'ottima metafora di questo processo di fare umanità ce lo offre proprio l'Africa equatoriale, con una pratica diffusissima anche fra le mamme italiane qua in Italia, che è quella del massaggio neonatale. Massaggiare il neonato, spesso con il burro di karité o con sostanze che in qualche modo siano oleose, favoriscano l'azione di massaggiare, è qualcosa, come sappiamo oggi tutti, di molto importante per lo sviluppo del bambino, per la costruzione di un legame relazionale con la madre, per il benessere del nuovo nato. Ma in Africa il massaggio ha anche un altro significato metaforico e simbolico, che è più profondo e che si esprime attraverso una metafora riportata spesso dalle mamme, che si riferiscono al neonato come argilla molle, che alla nascita non ha una forma ancora ben definita e che è attraverso il contatto con le mani e con le dita materne che man mano acquisirà una forma corretta, acquisirà una tonicità, quindi una forza, una resistenza, una durezza tale che gli permetterà di diventare un adulto, di avere una forma corporea adeguata. Non è un caso se alcune malattie del corpo in età successive, anche dei dolori o dei malanni in età adulte, talvolta possano essere attribuite a un non corretto massaggio sviluppato nella prima infanzia. Ancor più interessante è che questo massaggio neonatale realmente cambia il corpo dei bambini. E questa è una cosa che molto spesso i pediatri, qua ho un specialista di questo tema, però ci è capitato a Torino, confrontandoci con i pediatri, che molto spesso i pediatri che non si occupano esplicitamente di interculturalità non sempre lo sanno. E anche qua un aneddoto: una volta, lavorando appunto con i pediatri, parlavamo del massaggio neonatale e del massaggio nella prima infanzia, e a un certo punto ho menzionato come il corpo di questi bimbi sia sostanzialmente differente rispetto a quello dei bambini non massaggiati, perché il tono muscolare di un bambino massaggiato è molto più elevato rispetto a quello che normalmente è in un bambino tipicamente italiano non massaggiato. E a un certo punto uno dei pediatri è intervenuto dicendo: caspita, ora capisco, ho avuto una famiglia africana con un piccolo bambino di 9-10 mesi con un tono muscolare talmente alto da essere da me ritenuto ipertonico, e l'ho mandato in valutazioni neuropsichiatriche, neuropsicologiche, abbiamo fatto ogni accertamento, questo bambino peraltro in salute, perfettamente in salute, ma è con delle caratteristiche che io non riuscivo a collegare a niente. Ora capisco che è il massaggio neonatale quello che probabilmente ha determinato quella differenza anche corporea. La cultura quindi è qualcosa che ci plasma in profondità, anche il nostro corpo, e questo mi sembra un esempio molto eloquente. Tornerò poi sulla nascita per parlare di molte transizioni che accompagnano la nascita, che accompagnano il puerperio. Cito solo una che in particolare mi sembra molto interessante, che è presente in molte aree dell'Africa equatoriale e che è interessante, si è diffusa anche in America Latina nel periodo dell'arrivo drammatico di centinaia di migliaia di schiavi africani nel continente americano, che portavano brandelli, non si può dire portavano culture, ma brandelli della loro cultura. Erano persone a cui era stata data la caccia, che venivano in condizioni disumane, ma qualcosa portavano la loro memoria, la loro esperienza, e portarono fra le tante cose anche questa transizione, che è la transizione di prendere la placenta e il cordone ombelicale, conservarli e proteggerli subito dopo la nascita e seppellirli in un luogo in cui si fa poi crescere o una palma o un albero. E questa sepoltura e la palma che poi crescerà lì, o l'albero che poi crescerà lì, è in qualche modo la radice della persona, la radice di quel bambino, di quell'individuo. Quindi questo rito del seppellire il cordone, del seppellire la placenta, è quasi come rasicare una persona in una terra, come gettare delle radici profonde che uniscono un individuo a un luogo e quindi iniziare così il corso della vita. Poi la vita potrà portare anche molto lontani, ma è come se un pezzetto di te fosse sempre ancorato a quel territorio. La costruzione, questo processo di costruire umanità, prosegue poi fino alla morte. E si esplicita anche in maniera molto chiara nei riti funebri. Questo inizio e questa chiusura del ciclo non sono del tutto scollegati e vedremo come nel continente africano ci siano collegamenti simbolici molto forti, ma ci arriverò subito dopo. Il rito funebre è un passaggio fondamentale perché è un momento di chiusura, un punto finale che permette l'attivazione dei processi psichici di elaborazione del lutto. E questo è un elemento importante di cui oggi dobbiamo tenere conto quando parliamo d'Africa, anche per una cosa, per un fatto doloroso che sta avvenendo sotto i nostri occhi, che è la scomparsa di migliaia di persone nelle rotte di attraversamento del Mediterraneo e in particolare del Mediterraneo centrale, dove si registrano ogni anno, pensate solo all'anno scorso, quasi 6.000 morti, di cui poi solo in una percentuale bassissima dei casi si riesce a recuperare il corpo, si riesce a eseguire un rito funebre. Questo vuol dire che per le famiglie viene a mancare questa possibilità. Le famiglie in Africa, in Tunisia, in Senegal, ci sono molte associazioni di persone che cercano i migranti scomparsi, che non hanno notizie dei loro cari e che in qualche modo richiedono all'Europa un investimento forte e significativo, non solo sul salvataggio dei migranti in mare, che è senz'altro prioritario, ma anche sul recupero, sull'identificazione e sulla restituzione di dignità ai resti delle persone scomparse. Non è un caso se si è parlato per questi migranti scomparsi in mare come i nuovi desaparecidos, no? I nuovi scomparsi, nuove persone che diciamo per le loro famiglie a un certo punto vengono a mancare lasciando un vuoto che non può essere colmato dal rito. Il rito funebre è molto importante perché contribuisce a conferire senso alla morte ed espressione delle idee e della spiritualità condivisa e in questo senso il rito funebre costruisce comunità. Da lì l'importanza fondamentale per i migranti all'estero di poter avere degli spazi idonei per svolgere dei riti nel modo consueto per il proprio gruppo, perché questo è un modo per ricreare uno spazio identitario, uno spazio di riconoscimento comunitario che viene meno nell'immigrazione. Il rito, si sa, è anche fondamentale per i vivi, quindi sottolinea e rafforza le reti relazionali dei dolenti, di chi resta, e rappresenta un elemento chiave nella collocazione della memoria, cioè attraverso il rito si restituisce uno spazio al ricordo del defunto, lo si colloca in un luogo fisico o metaforico, in un luogo simbolico, e attraverso questa collocazione si permette di attivare un processo di significazione della perdita. Anche la maternità è soggetta a un processo di rappresentazione culturale. Non in tutte le società la maternità significa lo stesso, come non significa lo stesso in tutte le società la morte. Quello che invece sappiamo e che è universale è l'interesse degli esseri umani per occuparsi ritualmente dei morti. Questa immagine, che non c'entra con l'Africa, è la grotta di Katzfe in Israele ed è il più antico ritrovamento archeologico di un, diciamo così, di una sepoltura che indica la presenza di una ritualità funebre e calcolate è di circa 100.000 anni fa. Quindi 100.000 anni fa già l'essere umano sentiva l'esigenza di occuparsi ritualmente dei morti e di conferire senso alla morte attraverso la cultura. Io vado un pochino avanti perché il tempo non è lunghissimo e volevo arrivare proprio ai casi più concreti. Ecco, qua all'interno di quella diversità di rappresentazioni della morte va detto che non tutte le morti sono uguali. Nel continente africano, come d'altronde anche in altri contesti, alcune morti, le morti soprattutto di persone che hanno compiuto un percorso di vita, che raggiungono un'età considerevole, che diventano anziani, e non è necessariamente percepita come un dramma. E certo, qualcosa che causa dolore, che causa sofferenza, indubbiamente, ma è anche intesa all'insegna del completamento di un percorso di vita, di un percorso inevitabile e necessario di vita. E in qualche modo quindi qualcosa che non chiude del tutto un ciclo, ma che in qualche modo è, cioè più che la fine di qualcosa, è il completamento di un percorso, di un iter. E quindi è qualcosa che in qualche modo deve essere salutata con, se non diciamo gioia, quantomeno non con disperazione. Non è qualcosa a cui arrendersi nella disperazione. C'è poi a sorreggere quest'idea una fortissima connessione simbolica che già accennavo fra la morte e la nascita. Quest'idea nasce, non è, ecco qua, in queste idee che sono molto diffuse soprattutto nell'Africa subsahariana, c'è quello di cui accennavo, cioè l'impatto, l'influenza che le religioni tradizionali hanno avuto rispetto a quelli che sono i grandi credi religiosi. E cioè l'idea molto forte, che appartiene appunto alla religione tradizionale, che i neonati abbiano una connessione profonda e in qualche modo arrivino dal mondo degli antenati e siano degli antenati o direttamente un'incarnazione, o comunque che il loro iter, cioè il luogo in cui ci sono i non nati e i non più vivi, è uno stesso luogo simbolico da cui il neonato arriva come incarnazione di un antenato. Quindi la presenza dell'antenato e del neonato in qualche modo crea una connessione, una circolarità, che non è una vera e propria reincarnazione, o meglio, forse è anche questo, io non lo porrei in questi termini, lo potrei piuttosto in termini di come il neonato può essere associato fortemente, incarnare a uno specifico antenato, o come il legame fra l'antenato e fra il neonato e gli antenati possa impattare in qualche modo la nascita. E qua provo a raccontarvi alcuni esempi, perché quest'idea, perché le implicazioni, soprattutto in ambito sanitario e in immigrazione, di quest'idea diventino un po' più chiare. Per esempio, fra le donne che noi seguiamo nei consultori torinesi, di origine africana, per esempio nigeriana, non è inconsueto che gli aborti ripetuti vengano attribuiti al ritorno di uno stesso neonato, di uno stesso bambino, che vuole nascere, ma non è in grado di distaccarsi completamente dal mondo degli antenati. Quindi è come sospeso fra il desiderio della vita e il legame troppo forte, troppo vincolante, che intrattiene con coloro che non ci sono più. E questo fa sì che in qualche modo il neonato oscilli fra la vita e la morte senza risolversi in nessuna direzione. Tant'è che ricordo un caso specifico di una donna che aveva una storia di pluriabortività e che ha un neonato che purtroppo, cioè, riesce a portare a termine una gravidanza. Il bimbo nasce, però non ce la fa, perché era una gravidanza che aveva avuto parecchie complicazioni e c'è una morte in fase molto avanzata di gravidanza, quasi da considerare forse una morte perinatale. Qua io non sono un medico, quindi mi scuso se non sono precisa rispetto ai termini. Quello che ha colpito molto però il gruppo di infermiere, soprattutto, che si occupavano di questa donna, è che la donna non ha voluto né vedere il bambino, né salutarlo, né ha avuto manifestazioni visibili di dolore o di attaccamento a questo bambino che aveva perso. Inizialmente questa resistenza è stata interpretata come uno shock, poi è stata interpretata anche attraverso uno sguardo un po' giudicante, che inevitabilmente viene fuori quando ci confrontiamo con differenze culturali radicali, Poi è stato solo, cioè, giusicante, è indifferente, non gliene frega niente, insomma, espressioni di questo tipo. E poi è stato grazie alla mediatrice culturale che siamo stati, che gli operatori direttamente sono stati in grado di capire che cosa stava vivendo questa donna e qual era l'ambito di significato attraverso cui lei dava significato a questo evento e le motivazioni anche per non manifestare il desiderio di ritualizzare la morte di quel bambino. E questo era appunto il fatto che non voleva che il bambino continuasse a essere legato a lei. No, voleva spezzare il legame fra quel bambino e se stessa, in modo che il bambino non tornasse più e lei fosse finalmente libera di concepire un nuovo bambino e di portare a termine una gravidanza, non più con l'interferenza di questo piccolo essere in bilico fra due mondi. Quindi in realtà, dietro quello che poteva essere un'apparente indifferenza rispetto a questo bambino, c'è una rappresentazione culturale radicalmente diversa della morte perinatale, o meglio di quel tipo di morte, che era la base dei processi di costruzione di senso della donna. Questo tipo di legame fra l'antenato e la morte ci aiuta anche a capire alcune transizioni che circondano la nascita, come per esempio quella di separare la madre e il neonato per alcuni mesi o per quantomeno alcune settimane dal gruppo. Dal gruppo, dalla società, far sì che stiano in un luogo protetto, isolato, da soli e con i contatti con l'esterno limitati al massimo e con l'incontro solo di poche figure di riferimento. Il puerperio in qualche modo è concepito come un momento estremamente delicato, soggetto a pericoli e a rischi non solo di tipo visibile, come le malattie, come tutta una serie di altri problemi che si possono presentare, ma anche rischi di quella sfera complessa e spesso poco compresa che è l'invisibile, quindi anche il rischio, per esempio, di andare incontro o al malocchio o a malattie legate appunto all'invisibile. Perché questo? Beh, proprio perché c'è questa vulnerabilità data dall'essere stati a contatto con quel mondo dell'invisibile in maniera così ravvicinata. Ecco, questa sfera dell'invisibile, che a volte nel contesto, io preferisco usare questa espressione che è usata dagli antropologi, ma in molti casi si parla per esempio di stregoneria o di magia, e questo tema dell'invisibile è inevitabile ed è importante toccarlo quando si parla non solo del contesto africano, ma anche del contesto di altri contesti come quello dell'America Latina. E questo perché abbiamo parlato di una visione della morte come completamento di un percorso, quando si tratta di una buona morte, in qualche modo, di una persona che in qualche modo è riuscita a completare il proprio percorso di vita, ma non tutte le morti sono così. La morte può anche essere una morte improvvisa, una morte violenta, una morte che arriva in un'età precoce, la morte del bambino, no? Pensate anche a contesti come quello africano, dove i tassi di mortalità infantile sono significativamente più elevati rispetto all'Italia e quindi dove le persone, soprattutto quelle che vivono in aree rurali, in contesti deprivati dal punto di vista socio-economico, si devono confrontare con delle realtà anche umanitarie di estrema durezza e con una carenza grave di servizi di salute e di assistenza. Che succede in questi casi? Succede che quando la morte non può essere inquadrata all'interno di un orizzonte di senso, la ricerca del senso si sposta verso appunto la sfera dell'invisibile. E scatta quindi anche tutto quel richiamo al mondo della sfera magica, la stregoneria, questo capita anche nella malattia, per esempio, che porta le persone a cercare di conferire significato agli eventi, ma che rende anche le persone vulnerabili talvolta rispetto a forme non controllate, diciamo così, di questo genere di di percorso di significato. E la magia e la stregoneria come le spieghiamo? Beh, molto spesso si tende a vederle come semplici superstizioni. E io invece penso che potremmo vederle in una forma un po' più profonda, come un linguaggio che ci parla di sofferenza, un linguaggio che ci parla di una sofferenza non elaborata, o meglio, qualcosa che nella psicologia, nella psichiatria in particolare, viene chiamato un surplus cognitivo, e cioè è quel tipo di esperienza la cui portata oltrepassa la capacità del singolo di attribuire un senso a quello che sta vivendo. Cioè esperienze troppo grandi, troppo dolorose, al punto di non poter essere inquadrabili all'interno di quelli che sono i percorsi di significazione. Quindi l'invisibile rappresenta un modo per rendere pensabile, per dare una causa a ciò che è altrimenti inspiegabile, come appunto la malattia, ma anche per immaginare percorsi di azione quando altre strategie non sono possibili o sono fallite. E di nuovo pensate, come dire, alla malattia o alla morte. Quindi c'è da un lato la ricerca di significato, dall'altro un tentativo di governare gli eventi che si intrecciano nella ricerca dell'invisibile. Non mi soffermo tanto su il tema dell'affrontare le transizioni altrove, anche perché io ho ancora 5 minuti. Ho ancora pochi minuti, quindi mi limito a evidenziare come in immigrazione tutta una serie di problematiche, dalle immagini negative, dalle difficoltà linguistiche, dalla disinformazione, dalla fragilità delle reti di sostegno, la precarietà economica e sociale, contribuiscono a rendere le transizioni di vita estremamente complesse. E la maternità, così come la morte, rappresentano due poli in cui queste difficoltà si fanno particolarmente forti. Importante invece è aprire uno spazio di espressione per la pluralità e la diversità rituale. E la diversità diciamo molto, molto visibile. Volevo citare, ma lo cito proprio in due parole, nel caso dell'Islam, no? Che è quello con cui ci confrontiamo maggiormente negli ambienti ospedalieri. E la diversità rituale non sempre trova spazi di attuazione, e l'esempio appunto più caratteristico è quello della ritualità funebre islamica, su cui ci sono stati una serie di dibattiti, passaggi, passi avanti, e che io vi accenno proprio molto molto brevemente, senza entrare nel significato, dicendo solo che il lavaggio della salma è l'elemento cardine del rito funebre islamico, è l'elemento più importante, perché è ciò che permette la purificazione del soggetto, del singolo, prima di andare al cospetto di Allah. Il lavaggio della salma però è un'azione che deve essere compiuta con una serie di prescrizioni specifiche. Innanzitutto, non chiunque può eseguire un lavaggio di una salma islamica. Se è un uomo, quello che è morto, deve essere l'imam a eseguirlo questo lavaggio, o una figura autorevole religiosa. Se è una donna, deve essere una donna anziana, oppure anche qua una donna autorevole nella comunità a eseguire il lavaggio. Deve essere fatto con acqua che scorre, quindi acqua pura. Deve essere fatto in uno spazio puro, caratterizzato appunto da non essere un bagno, non essere, no? E quindi già pensate dove c'è in un ospedale acqua che scorre? Nei bagni, eccetera. Non sempre ci sono spazi idonei in cui eseguire questo lavaggio. Il lavaggio prevede poi anche un ambiente particolare, perché è necessario eseguire 7 passaggi con l'acqua sul corpo del defunto, far sì che in ognuno di questi 7 passaggi l'acqua scorra purificando la persona e pronunciando nel frattempo delle sure del Corano. Si procede poi all'avvolgimento della salma, al trasporto verso il luogo di sepoltura, alla preghiera e alla preghiera funebre, e infine alla sepoltura senza bara, ma in alcuni paesi anche con la bara, con il volto rivolto verso la Mecca, e soprattutto non si tocca più il corpo, cioè non è prevista l'esumazione. Solo elencando così al volo tutte queste cose, vedete come ci siano grandi differenze rituali rispetto al modo in cui viene normalmente gestita la ritualità funebre qua in Italia, e come viene eseguita in ospedale la cura delle salme. E solo un fatto, mentre spesso gli infermieri e le infermiere ritengono parte del loro dovere pulire una persona prima di consegnarla ai familiari, lo ritengono parte essenziale, come dire, del decoro, no? Questo detergere, pulire anche i fluidi, perché sapete che è necessaria una cura anche di quegli ultimi momenti. Questo invece non è, per esempio, non è la richiesta della comunità islamica. La richiesta della comunità islamica è che il corpo non venga toccato, ma che questo lavaggio sia integralmente eseguito da persone rappresentanti della comunità. Quindi agendo a fin di bene si può magari entrare in una situazione di contrasizione. Questo mi permette di dire che cosa? Mi permette di dire che la costruzione di un processo di dialogo e di mediazione con le varie confessioni religiose è un processo che va attuato, perché attraverso questo processo si può favorire un'integrazione più efficace, una convivenza più efficace. Gli strumenti più utili sono la riflessività, la consapevolezza che ogni visione del mondo non è che una delle possibili maniere di affrontare la realtà, e che vedere le cose dal punto di vista dell'altro, ascoltare in maniera attiva, ci porta verso una dimensione di empatia e di comunicazione, di consapevolezza, che ci permette di rendere qualcosa di vivo l'idea della diversità culturale come fonte di arricchimento e non solo come problema da gestire. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra pazienza, ai colleghi relatori, perché credo di aver un po' sforato, e con questo concludo la mia relazione. Grazie per la vostra attenzione. Credo che anche l'applauso così lungo testimoni della nostra proprio soddisfazione dinanzi all'intervento della professoressa Vargas, perché è stato davvero completo, molto ricco, anche non proprio completo, però molto molto ricco. Ha fatto emergere l'eterogeneità, la pluralità, la diversità, e non ha lasciato nulla, ecco, scontato, già al partire dal concetto di cultura, persona. Insomma, è stato davvero un intervento molto molto ricco, ricco anche perché ha incluso testimonianze, aneddoti che ho molto apprezzato. Tant'è vero che ora l'altra parte della giornata di studio proseguirà proprio in questa direzione, perché seguiranno ora due testimonianze. La prima ci viene offerta da Don Oliver Izuogu, che ci offrirà, diciamo, affronterà la tematica da un punto di vista teologico. Don Oliver è nato in Nigeria, è presbitero diocesano. Abita in una parrocchia della diocesi di Verona, nella quale svolge il servizio pastorale. Ha conseguito il titolo di licenza in teologia con specializzazione in spiritualità nel 2016, quindi l'anno scorso, ottenendo brillanti risultati, summa cum laude, quindi è stata una tesi molto brillante. Si è occupato all'interno di questa tesi di temi attinenti al matrimonio, alla procreazione, alla famiglia nella cultura africana, e sono tutte tematiche che Don Oliver sta continuando ad approfondire ora all'interno del dottorato in teologia, che ha iniziato proprio all'interno della facoltà teologica del Triveneto, qui quindi a Padova. Io lascio subito la parola a Don Oliver, appunto, per la sua testimonianza diretta. Grazie, lo ringrazio fin da ora. Grazie, professoressa Francesca, e grazie anche professoressa Anna, perché questo, tra poco tempo, un quadro molto ampio di questa. E il mio è di concentrarmi su alcuni punti, perché siccome l'ambiente Africa è l'ambiente in cui sono nato, quindi se mi lasciate posso raccontare di tutto. Quindi anche per questo vi chiedo che io vorrei leggere ciò che io ho preparato, così anche non vado oltre al tempo. Il tema, il titolo, il mio intervento è la realtà del nascere e del morire nel contesto africano, punto di vista teologico. Il mio intervento ha l'intento di farvi riflettere sulla realtà del nascere e del morire nel contesto africano. Per inquadrare correttamente la mia ricerca è necessario fare alcune premesse fondamentali. Tre premesse. Prima, Africa, di quale Africa? Come professoressa anche ha accennato. Seconda premessa, importante, religione o religioni, quando si parla dell'Africa o della cultura africana, della religione. Terza, e qual è il legame tra la religione e la cultura in Africa? La prima premessa. Per Africa, in questo mio intervento, come abbiamo anche sentito, intendo l'Africa subsahariana. Secondo le Nazioni Unite, l'Africa subsahariana è composta da tutti i paesi africani che si collocano totalmente o parzialmente nel sud del deserto del Sahara. Essa è altra da tanti punti di vista rispetto al Nord Africa, il cui territorio fa parte della Lega degli Stati Arabi, seppur con qualche eccezione. Si tratta quindi di una cinquantina di nazioni, per alcuni 48, per altri 49, tra le quali 6 sono nazioni insulari. Per averne una panoramica generale, basta consultare una mappa. Molti studiosi nell'Africa subsahariana riscontrano una certa omogeneità nel modo di vivere del popolo, come Nkafun Kemkia, uno di questi, dice: dunque, anche se apparentemente ci troviamo di fronte a molte Afriche, dobbiamo però pensare che siamo davanti a un solo popolo con valori comuni. Seconda premessa, religione o religioni. La religione è un punto focale della vita africana ed è legata alle varie tradizioni spirituali che tuttora esercitano un'enorme influenza sul popolo. Ogni popolo africano ha la sua tradizione spirituale. Anche oggi la maggioranza degli africani è ancora molto attaccata alla religione tradizionale dei padri. Però uno studio comparato delle principali religioni a sud del Sahara con le loro credenze e pratiche ne dimostra un comune fondamento e un quadro coerente. L'unità religiosa del popolo africano è basata fondamentalmente sull'idea che esso ha di Dio. Dio è l'essere al di sopra di tutto e di tutti, l'eterno vivente e creatore del mondo. Una rappresentazione di questo di solito viene in modo di un triangolo. Qui c'è l'Eterno Supremo, Dio creatore del mondo. L'altra parte ci sono gli dei, dall'altra parte ci sono gli antenati. La base c'è la Dea, la Madre Terra. Per il popolo africano la Madre Terra non è la terra, non è la sabbia, è una dea. Il poliziotto, l'idea che si occupa del morale pubblico del popolo africano, è una femmina, la terra. Terza premessa, il legame tra religione e cultura in Africa. In Africa è difficile separare la religione dalla cultura che non esiste una netta linea di divisione fra il sacro e il profano, a differenza invece di quella è percepibile nell'Occidente post-illuminista. Nella religione tradizionale africana, infatti adesso si parla della religione tradizionale africana che studiamo anche da seminarista, nei vari seminari c'è un corso della religione tradizionale africana. La religiosità è legata all'appartenenza alla comunità. Nella cultura africana, quindi, non esistono atei o non credenti, e tantomeno si può parlare di indifferenza religiosa. Ovunque si trova l'africano, porta la sua religione. A volte questa crea problema perché da un africano io sto facendo questo, ma i valori che sto dicendo sono i valori che appartengono più o meno all'era post-missionaria. Quindi, ma ancora oggi esercita un'enorme influenza sul popolo africano. Quindi questo è molto importante per l'africano, che per lui o lei la religione è 24/7. Quindi quando si è convertito o in cristianesimo o islam, che va solo a messa solo una volta o due volte alla settimana, lascia un vuoto nella sua vita, perché prima la religione dei padri è ovunque. Ogni cosa, nel mangiare, nel bere, nel danzare, nel andare sulla strada. Date queste necessarie premesse, passiamo ora al tema che più specificamente ci interessa. Due punti, tra l'altro, perché ci sono vari punti, infatti professoressa ha fatto un bel lavoro, quadro generale, per non perdere tempo, io cerco di sottolineare soltanto due punti molto importanti. Il primo punto è che nascere e morire nella cultura africana sono due fenomeni interconnessi, l'ha accennata lei, in questa interconnettività. Secondo punto è che sia nel nascere che nel morire, nascere e morire entrambi sono segnati da momenti di lutto e momenti di festeggiamento nella cultura africana. Primo punto. La separazione fra nascere e morire, intesa come due poli opposti della vita, è completamente assente nella cultura africana. Nascere e morire non sono due concetti reciprocamente esclusivi e non è rintracciabile una netta linea di separazione fra loro. L'idea di parto o partorire è parte integrante del modo in cui la religione africana considera la morte, specificamente quando l'ultima avviene nell'età matura. Per spiegare bene quest'ultimo punto, mi avvalgo di un'esperienza diretta e personale. La mia bisnonna paterna apparteneva alla religione tradizionale africana. Nel 1980, quando avevo 5 anni, lei, che già era molto anziana, mandò a chiamare mia madre. Quando mia madre arrivò, le disse: «Mi piace molto come ti prendi cura dei tuoi bambini, l'amore, l'affetto, la premura che hai per loro, eccetera. Quindi preparati, perché verrò a casa tua come una tua figlia, così che tu mi possa trattare come gli altri tuoi figli». Alcuni giorni dopo morì. Subito dopo la morte, gli adulti ci dissero di non piangere ad alta voce per non disturbarla, perché si riteneva essere ancora presente nella cameretta in cui morì. Nel corso del rito del funerale, che è durato più di un mese, si sono susseguite manifestazioni di lutto durate fino alla sepoltura. Successivamente tutto si è trasformato in gioia e grandi feste. Alla fine del funerale, gli adulti dissero a noi bambini che la sua nascita tra gli antenati aveva avuto un grande successo. Nell'anno successivo nacque mia sorella. Lei è molto somigliante alla bisnonna nell'aspetto fisico e perciò le è stato dato il soprannome della bisnonna. Ciò che stupì fu riscontrare sul suo corpo le tre cicatrici con le quali la bisnonna era stata segnata in vita. Come di consueto, mio nonno andò a consultare gli oracoli e gli fu detto che la bimba, mia sorella, era infatti la bisnonna tornata in vita. Per capire meglio il perché di queste pratiche, occorre considerarle da un punto di vista religioso. Bisogna dunque considerare l'apporto che la religione tradizionale africana può aver dato nella costruzione di un sentire così condiviso. Una base religiosa di queste pratiche è il fenomeno della reincarnazione. Il punto di partenza è rendersi conto che gli africani hanno una credenza forte nella reincarnazione, almeno quanto quella degli Hindu e dei membri di altre religioni, come il buddismo e il jainismo. La credenza africana, tuttavia, differisce da quella indiana in importanti aspetti. La nozione di ruota dell'esistenza, che ghermisce tutti gli esseri in cicli di rinascita e di cui gli uomini potrebbero evadere solo a prezzo di grandi sforzi nel nirvana, manca totalmente nel pensiero africano. Similmente, la nozione di premio o castigo assegnato con la rinascita in uno stato superiore o inferiore, quale si trova in Platone e nella credenza indiana, è assente in Africa. L'idea indiana che questo nostro mondo sia un luogo di sofferenza e illusione è addirittura contraria a quella africana. L'africano, penso, pensa a questo mondo come a un mondo luminoso, caldo e vivo, al quale i morti sono solo felici di tornare dal mondo sotterraneo delle tenebre e del freddo. Il nostro mondo è considerato il migliore di tutti i mondi possibili. L'atteggiamento dell'africano è di affermazione del mondo, non di rinuncia ad esso. È perciò una punizione essere trattenuti nell'Ade, e la mancanza di figli è una maledizione perché blocca il canale della rinascita. Una parte di questa viene dalla mia tesi di licenza, la mancanza di figli nell'ambito africano, cultura Igbo. È convinzione comune che un avo in genere si reincarna soltanto nei suoi discendenti. E per questo si può capire, soprattutto nella mia cultura, uno che si alza a dire suo papà che vuole diventare prete è come è uno stupido. Bisogna però fare ulteriori chiarimenti, poiché finora la reincarnazione africana non sembra conciliarsi con il cristianesimo, ma non è accettata dalle comunità cristiane africane, poiché è ancora considerata una superstizione. Ma la ricerca su questo fenomeno continua, perché esso tuttora esercita un'enorme influenza sul popolo africano. Secondo punto, la interconnettività. Nascere e morire, e entrambi segnati da momenti di lutto e momenti di festeggiamento. Un'altra cosa interessante che è emersa dalla mia esperienza e anche dalla mia ricerca è che sia nel morire che nel nascere ci sono sempre presenti dei momenti di festeggiamento e dei momenti di lutto. Cercherò di mostrare questo fenomeno con qualche descrizione dei dettagli. Mi avvalgo ancora dell'esempio della morte della mia bisnonna. Subito alla sua morte iniziò un momento di lutto parziale dei membri delle sue famiglie strette, con pianti e lacrime. Però si fece tutto sottovoce, nell'intimità, senza fare rumore. Il momento del lutto parziale era un periodo di preparazione preliminare per il funerale, durante il quale gli adulti delle sue famiglie ebbero una serie di incontri con gli anziani del clan per decidere la data della funzione e per dare l'avviso a quelli che dovevano saperlo per primi. Decisa la data, cominciarono le preparazioni più elaborate con l'avviso formale al pubblico. Ci si aspettava che tutti quelli che l'avevano conosciuta in vita fossero presenti per vedere la salma per l'ultima volta prima della sepoltura nella madre terra. Di estrema importanza era la presenza dei membri del suo paese d'origine. Poco prima della data del funerale, tutti i membri delle sue famiglie e i parenti stretti si tagliarono i capelli e si fecero una divisa da lutto, che sono segni di lutto tipici in Africa. A metà mattina, nel giorno del funerale, la salma venne esposta e tutti i presenti, i quali, passando in fila, le diedero l'ultimo saluto. Noi pronipotini fummo invitati a fare una danza tradizionale intorno alla salma. Al momento della sepoltura ci fu una grande espressione di lutto con pianti e lacrime. Di fianco a lei nella tomba vennero messi alcuni oggetti personali, dei vestiti, un bastone, eccetera, poco prima della sepoltura, che è fatta sempre per inumazione. Venne sepolta in un fazzoletto di terra vicino alla sua capanna, a poca distanza dal suo ingresso. Subito dopo la sepoltura, tutto si trasformò in festa, gioia, danze e grandi celebrazioni che durarono più di un mese. Il funerale della mia bisnonna è uno degli esempi che mostrano che la copresenza degli opposti di lutto e di festa in genere segna il fenomeno del morire nella cultura africana. Alla fine di questo intervento vedremo un video campione di solo 2 minuti che ci aiuta a avere un'idea di questo fenomeno. Tutto questo ci rinvia ad una struttura religiosa di base. Secondo Giorgio Bonaccorso, le religioni sono strettamente legate al nascere e al morire, e il loro intento sembra essere stato spesso quello di realizzare una parziale inversione dei due poli, in modo che il tragitto più evidente dal nascere al morire potesse venire capovolto nel tragitto simbolico del morire al rinascere. Nella religione tradizionale africana, l'anima con la morte lascia il corpo. Si pensa che il distacco avvenga nel momento stesso in cui si esala l'ultimo respiro o quando si mette la terra sul cadavere nella fossa. In questa prospettiva, la morte è sempre un fatto doloroso, un male irreversibile, anche per la cultura africana. Subito dopo la morte, l'anima può ancora indugiare sulla tomba per un certo tempo o essere accessibile in quel sito per ricevere doni e consultazioni. Dopo il funerale, il morto comincia il suo viaggio per il mondo degli antenati. Il nuovo arrivato prende denaro, doni e cibo per aiutarsi durante il viaggio ed avere qualcosa da offrire ai suoi anziani che lo accolgono quando arriva. Quindi le feste, in qualche modo, fanno parte dei riti di passaggio e nello stesso tempo significano una celebrazione della sua nascita o un ingresso nello stato di antenato. In molte comunità africane, queste sono le parole dei vescovi, ricordiamo del sinodo, assemblea speciale sull'Africa, Ecclesia in Africa, il sinodo, le proposizioni. I vescovi dicono: in molte comunità africane gli antenati occupano un posto d'onore, sono parte della comunità insieme ai vivi. In molte culture c'è un'idea chiara di chi merita di essere chiamato antenato. Questo è molto importante per la cultura africana. In questa prospettiva, la morte normale, tra virgolette, normale, cioè in un'età molto matura, professoressa ha detto questo in altro modo, cioè una morte normale, età molto matura, è vista come una trasformazione di tipo vita mutatur non tolitur. È un cambiamento nel modo di appartenenza alla propria famiglia e comunità. Essa viene considerata un annientamento solo per chi non verrà ammesso al mondo degli antenati. Alcuni esempi possono essere la morte precoce di un ragazzino o di una ragazzina, la morte di chi non ha avuto figli, la morte di chi ha trasgredito le leggi morali della madre terra, oppure la morte di una strega o di una persona molto cattiva. In questa prospettiva vediamo che il modo di seppellire i morti in Africa in genere è per inumazione, perché cremazione, infatti nella mia diocesi è ancora non è permesso cremazione, solo se si può fare questo per motivi, diciamo, della salute o per cosa, perché ci vuole un permesso dai vescovi per fare cremazione, perché in questa cultura cremare vuol dire impedire qualcuno che non si rinasca. Ora giriamo pagina verso il fenomeno del nascere per esaminarne la copresenza di festa e di lutto. In linea di principio, la nascita di un bambino nella cultura africana è segnata da festeggiamento e da grande gioia per tutta la comunità. Io ho sentito con piacere il discorso di cordone ombelicale, perché so dove il mio ancora è stato sepolto. Quel albero lì, albero di pera, nessuno lo tocca, nessuno, solo io, il mio. Quindi il modo di uno studioso lì ha spiegato questo, un modo di dire che un bambino dopo con questa diventa non più un bambino della propria famiglia, ma un bambino della comunità, perché tutti nella comunità rispettano questo. Questa gioia si manifesta spesso nella scelta dei nomi che gli africani danno ai loro bambini. Per esempio, nella cultura Igbo, in Nigeria, la mia cultura, Mwabowa significa la prole e tutto il mondo per me. è un HC, vuol dire la prole è più preziosa di tutto. È interessante inoltre notare che i festeggiamenti nell'occasione della nascita di un bambino o una bambina non riguardano solo i vivi, ma soprattutto i morti, perché il neonato viene considerato anche come il loro bambino. A prescindere da questa gioia fondamentale, ci sono però alcuni elementi che potrebbero essere paragonati nella cultura africana a ciò che avviene col morire. In genere c'è sempre un periodo di isolamento per il neonato e la sua madre, dopo il parto. Questa pratica è diffusa in Africa pur con qualche variazione. Subito dopo il parto, la madre del neonato si taglia i capelli, come si fa per il funerale, e si prepara a stare a casa per un certo periodo di tempo. Potrebbero passare dei giorni prima della sua ripresentazione al pubblico. Non abbiamo tempo, avrei voluto fare una storia, piccola storia su questa cosa. Ma perché queste pratiche? John S. Mbiti ci propone una spiegazione. Secondo lo studioso, il periodo di isolamento simboleggia per la madre e il neonato il periodo del morire, dal quale, quando volge al termine, essi risuscitano per riprendere la vita normale. La sua spiegazione aiuta a capire perché la madre si taglia i capelli e perché si osservi un periodo di inattività domestiche, non si fa il bucato, non si pulisce la casa, eccetera. Queste pratiche rimandano al cessare delle attività di vita normale che avviene in occasione della morte fisica. Laurenti Magessa, inoltre, osserva che una donna incinta viene trattata con lo stesso rispetto con cui viene trattata una salma. Entrambe sono sacre in termini del loro statuto e la vita che esse portano. Come la salma di una persona che ha avuto una morte normale viene appartata per darle un funerale dignitoso, così anche una donna che porta la pienezza di vita è di solito appartata per proteggerla dal male. Per il neonato, le cerimonie di conferimento del nome sono molto importanti per la sua integrazione nella comunità. Ufficialmente un bambino non esiste, tra virgolette, non esiste fino a quando non gli sia stato dato un nome. Nella prospettiva della reincarnazione africana, un nome di un avo dato ad un bambino è un atto di risurrezione che dona continuità alla vita dall'avo al neonato. Occorre quindi che la nuova persona che riceve il nome viva ed agisca secondo le aspettative del suo nome. Il rito di conferimento del nome significa che la trasmissione della vita dal morire a rinascere è dunque completa. E quando 2005 che sono diventato prete, che alcuni adulti della mia famiglia hanno smesso di chiamarmi per il nome di un avo che non conosco, dicono che è lui che si è rincarnato in me. Quindi quando sono diventato prete, perché ormai dalla religione cristiana che non accetta questa ha cominciato ad avere influenza, quindi dicono questo ma non più come una cosa seria, ma io dico a mio papà, vorrei anche sapere di questa persona come ha vissuto, perché dicono questo, hanno detto che in modo che io cammino, che camminava. Conclusione. Il mio intervento non pretende ovviamente di essere esaustivo, anche perché questo ambito, non sono, diciamo, un specialista in questo ambito, Ma diversi aspetti del tema in questione meriterebbero un ulteriore approfondimento. Non si può parlare del nascere e il morire nella cultura africana prescindendo da una prospettiva religiosa, attraverso la quale nascere e morire entrano nell'universo simbolico della stessa cultura, non come due fenomeni estranei, bensì interconnessi, in cui il morire segna l'inizio del rinascere. Resta aperta la domanda teologica sul modo in cui questa visione religioso-culturale del nascere e morire può essere interpretata e valorizzata, eventualmente criticata, alla luce della rivelazione cristiana. Grazie. I giorni della Chiesa. Abbiamo sentito per secondo l'intervento di padre Oliver Isuogu, teologo nigeriano, prima ancora dell'antropologa Anna Cristina Vargas, nell'ambito della giornata di studio promossa dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, Nascere e Morire nella Cultura Africana. Ringraziamo lo stesso Istituto Superiore di Scienze Religiose per aver messo a disposizione questo materiale. La giornata è in realtà stata molto più ricca di interventi. Altri si trovano proprio sul sito dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, issrdipadova.it. Grazie a Didaici in regia, a voi tutti per l'ascolto, da Mirko Cavallin, buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.